Sembra un ottimo discorso, ha espresso un'inquietudine forte che c'è da parte dei cittadini verso la politica, si è fatto carico di questo e ha promesso risposte, questo è importante. E un'altra considerazione che io condivido è il grande rischio oggi che grava sull'Occidente di una libertà lesa dal relativismo, per cui mi sembra che la partenza sia stata buona, mi auguro che sia garante dei diritti non solo della maggioranza ma anche dell'opposizione.